Il serpente corallo di Stefano Elli, Marco Lo Conte e Mauro Meazza. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Benvenuti, benvenuti, benvenuti al Serpente Corallo, benvenuti da Mauro Meazza, da Marco Lo Conte, da Stefano Elli. E allora benvenuti, perché questa è l'unica trasmissione che vi insegna a riconoscere e possibilmente a evitare i serpenti corallo. Che sono, Stefano, i serpenti corallo sono... Sono quelli che ti fregano, sono... che ti ammanniscono, che ti blandiscono. Ah, ti vellicano anche? No, vellicano dalla risata. Vellicano. Va bene, vi siete mangiati il vocabolario quest'oggi, però io vi voglio dire, avete fatto bene, perché avreste dovuto però mangiarvi anche quello di inglese. Sì. Sapete perché? Perché oggi vogliamo, io devo dire, l'invidio un po' i nostri ascoltatori, perché ogni tanto colmeremo sì. ogni una tanto lacuna sì. importante, e cioè quella di stare attenti all'ultima frontiera, l'ultima per ora che abbiamo potuto rintracciare, del serpente corallo, appunto della fregatura, e che è il digitale. Ah. Il serpente corallo, cari amici, ha nidificato, sta nidificando, sta propagandosi proprio nei vostri smartphone, nei vostri tablet, nei vostri computer, anche quello di casa, anche. Vi arrivano cose che potrebbero ghermire. Vi piace ghermire? Anche io ho mangiato un po' il vocabolario stamattina, un sì, pochino, qualche pagina soltanto. Potrebbero, dicevo, ghermire il vostro denaro e i vostri risparmi. Dico bene, Stefano, tu ne hai scovati diversi già di questi serpentucci digitali. Io ormai li chiamo gli X-Factor. Gli X-Factor, ah già, ci avevi forse spiegato in altre occasioni. Ricordaci cos'è questa cosa della X? Non so se vi siete resi conto sui social network, Facebook e altre diavolerie. A volte capitano dei banner pubblicitari, banner, bello banner, pubblicitari, banner, bello sì. banner, mi piace un banner, in cui qualcuno vi esorta a investire su piattaforme online promettendo di farvi diventare ricchi. Con pochissima fatica, basta un click. E come no? È il campo dei miracoli, praticamente, quello del gatto e la volpe di Pinocchio. Esatto, ricorda qualcosa. Pensate che differenza può fare un click dalla tranquillità e vi può trascinare in un baratro di disperazione. Vabbè, adesso però mi sta mettendo anche un po' di nervosismo questa cosa, ma la X cosa c'entra? La X, perché quasi tutte queste società nella ragione sociale hanno una X. Ah, quindi Forex, Phoenix, Fox, tutte queste cose qua. Forex peraltro è una cosa molto seria, perché è il mercato online delle valute e delle materie prime, delle commodities. Quindi è una cosa seria, non è un serpente corallo. Però molto nasconde spesso il serpente corallo nasconde il serpente corallo. Il serpente corallo piace stare all'ombra della X. Ci piace. Abbiamo visto che gli piace stare all'ombra della X. Si camuffa tra le due righe, tra i due segmenti della X. È una di quelle società che, diciamo, ha dato più preoccupazioni e più gatte da pelare ai risparmiatori. Ha un nome che contiene appunto una X. Si chiama la IBS Forex di Como. Fondata da Graziano Campagna. Ma allora, guarda, abbiamo proprio una scheda per far capire ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando. Attenzione alla scheda. Questi sono i numeri di una non truffa. Quasi 1.400 investitori coinvolti, una rete di 110 promotori e procacciatori, 86 milioni investiti, 40 milioni di perdite complessive, 31 i milioni persi dalla provincia regionale di Palermo. Come in altri casi già esaminati dal serpente corallo, anche la comasca IBS Forex, dichiarata fallita nel 2012, puntava sui mercati delle valute e intercettava il denaro degli investitori attraverso una nutrita rete di promotori e di procacciatori. Almeno in questo caso, però, non si può parlare di truffa. I protagonisti della vicenda, infatti, sono stati perseguiti per reati fallimentari e non per abusiva raccolta di pubblico risparmio o per truffa. Di sicuro, però, chi ha deciso di fidarsi delle teorie di Graziano Campagna, fondatore della società e oggi processato in appello dopo una condanna in primo grado a 8 anni di reclusione, ha avuto modo di pentirsene amaramente. Tra gli investitori anche la provincia di Palermo, che nell'affare ha puntato e perduto 31 milioni. Conseguenza, un procedimento per peculato ai danni dei responsabili dell'investimento. E vabbè, qui c'è un non truffatore perché non è stato perseguito per truffa, però poi lui stesso si lagna di essere truffato, ma quello che ci interessa è mettere a fuoco l'aspetto digitale, giusto Marco? Questo noi stiamo cercando di enucleare, su questo vogliamo mettere l'avviso. Attenzione al tablet, attenzione allo smartphone. Eh sì, perché quando noi ci mettiamo a operare, a discutere, a fare delle cose che facciamo normalmente, ma lo facciamo su internet, su appunto i nostri devices. Devices. Va bene, insomma. Va bene, sul telefonino. Oh, ecco, sì, adesso ho capito. Lì scattano dei meccanismi anche psicologici, studiati dagli esperti del settore, che praticamente fanno emergere una parte di noi stessi che non è esattamente controllata così come è controllata la nostra presenza in un ambito sociale normale, mi verrebbe da dire. In un ambito fisico. Senti, io penso, credo di indovinare che tu abbia a questo proposito un'intervista esclusiva con... Ebbene sì, perché allora noi ci siamo intrufolati perché noi facciamo giornalismo di servizio, sì. E dentro il giornalismo di servizio, il giornalismo di inchiesta, di approfondimento, sì, di scavo e anche un po' di battaglia, beh, ci sta, quindi noi ci siamo intrufolati dentro una di queste società dove abbiamo scovato l'ideatore di questa bancarotta fraudolenta, si può dire fraudolenta? Volendo. Allora, scommetto di sapere chi è. Magari è preterintenzionale, che ne sappiamo. Bah, bancarotta preterintenzionale, bah, chi lo sa. Gli è scappata una bancarotta. Stava pulendo la bancarotta, gli è partito un colpo. Va bene, allora magari, guarda, siccome il tempo non è tantissimo in questa prima parte, se tu vuoi mandare intanto la prima parte di questa intervista, che io ho paura di sapere a chi l'hai È lui, il protagonista. È sempre lui, lascia stare che sia sempre lui. L'importante è che sia proprio lui. Ma è lui anche stavolta. Pipitone Broccoli. Testa spalle. Shortare. Traccia. Adesso traccia. Livello di resistenza 3,20. Supporto 3,10. No, non lo insegue. Mi scusi. Aspetta. Chi è? Sono Marco Loconte, sono un giornalista del Sole 24 Ore. Volevo farle qualche domanda. 24 ore? Sì, volevo farle quello che non fa niente di analisi tecnica è il 24 poca ore. Poca roba, però lo teniamo, abbiamo una piccola rubrichina. Diciamo Beta Stock. Sabato con Plus. Beta Stock. E poi sul sito mettiamo tante... Posso fare qualche domanda? Bull Market. Cosa sta facendo? Stocastico. In che senso? Ipercompro. Ipercompro io. Ipercompra? È ipercompro. Cioè compra tanto, lei è un investitore. Ipercomprato e ipervenduto. Lei fa trading. Online, ecco. Scalping. Ma senta, c'è lo scalping. Lei è uno scalper. Faccio lo scalping. Cioè fa lo scalpo. Cioè, adesso sto imparando. A chi fa lo scalpo lei? A quelli di... Che domande? Cioè, a chi, cioè, voglio dire, lei sta guadagnando... Shorta! Vede che mi manda in confusione, ma senta, due domande e poi la lascio shortare quanto vuole. Lei sta investendo i suoi soldi o i soldi di qualcun altro? Quelli di qualcun altro. Chi sono queste persone? Sono delle persone che mi hanno dato i soldi a me. E in virtù di cosa? Lei ha fatto una ricevuta? Vabbè, certo. Ho fatto anche un sito apposta io. E come si chiama questo sito? Non glielo posso dire. Come non lo può dire? Si chiama Bull Market. Forex. Ma che cosa fa? Gli do una password. Ok. E loro aprono il loro sito con il loro conto e dopo... Guadagnano? No, perdono. Però loro non lo sanno perché dentro il loro computer c'è sempre la schermata con i soldi che ci sono ancora. Cioè lei manda loro una schermata fittizia, finta, falsa? Sì. Ma lei è un falsario di informazioni finanziarie. Poi i soldi li mando a Dubai. A Dubai? Sì, mi sono messo a fare una triangolazione con due società, una di Dubai. E l'altra? E l'altra, non so, adesso vediamo. Ah, quindi devo ancora costituire questa, deve completare. Prima quindi ci faccio sottoscrivere due linee. Due linee? Sì, una prudente. Sì. Con i conti di deposito al 50% invece su valute a leva. Valute a leva mi sembra molto rischioso, molto azzardata come strategia. Questa è prudente. Questa, perché questa è quella prudente. Sì, ma l'altra è tutta a leva, tutta su valute. Senta, ma lei non ha paura di perdere non solo i soldi dei suoi clienti, che vabbè, insomma, secondo me ce li possono pure salutare, ma anche i suoi di soldi? No, è tutto organizzato. Organizzato da chi? Da me. A che scopo? Per fare cosa? Allora, ci spiego bene. Allora, funziona in questo modo. Il cliente mette i suoi soldi e li gioca. Ok. Con la stocastica lì. Già giocare i soldi, già è una cosa, un termine che a noi non piace tanto. Comunque, completi. Li perde, eh? E chi guadagna è un'altra società, ah, che sono sempre io. Ah, ecco, ma questa è una truffa, diciamocelo. Non è una truffa. E che cos'è? Un modus vivendi. Ah, ecco, un modus vivendi. Senta, ma lei, visto che questa operazione è ancora in corso, facciamo in tempo a dissuaderla da completarla. Lei potrebbe anche evitarlo, evitare questa truffa, questo comportamento lesivo. Adesso altre 20. Che cosa altre 20? Altre 20, non mi faccia passare che sta testando il livello di resistenza, poi si va a supporto. Questi sono tutti termini di analisi tecnica, perché lei sta guardando il tracciamento di un grafico, di un titolo. Metastock, quello che è, ma insomma. Sorta! Sì, stia calmo. Allora, mi promette che ci pensa, non lo faccia più. Non lo faccia più. Io come mangio? Vabbè, ci sono tanti lavori. Come lo alimento il Panfilo? Il Panfilo, perché lei è anche un Panfilo. 50 metri. 50 metri, complimenti, con la società che sta a Dubai. Va bene, questo ce lo certifica. Shortare. Va bene, io ci rinuncio. Ma Pipitone Broccoli, il regista occulto, l'esperto di finanza occulta, questa volta anche sul digitale. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco. Attenzione al device. Dimentica i compromessi. Scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta Il Serpente Corallo. Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. È la tua ultima occasione. Se rinunci, non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Questa volta ci siamo andati pesanti con la clip, eh? Eh sì, la tana del bianconiglio nei Matrix è straordinario. Però Marco, ci stava. Bentornati, sì, a Serpente Corallo. Oggi stiamo parlando di truffe con il digitale, truffe con internet, truffe sui tablet, truffe con il computer. Addirittura, come ci annunciava l'intervista a Pipitone Broccoli, ci sono questi casi di siti per cui uno è convinto di star guardando i suoi propri risparmi che ha affidato a qualcuno e invece sta vedendo tutta una cosa falsa. Ho capito bene, Stefano? Hai capito benissimo. Tra l'altro, quello che dice Pipitone Broccoli è, sì, vero, almeno in due casi. Perché quando parla degli EBS Forex, quando si parlava di EBS Forex e si parlava di due linee, una prudente e una aggressiva. Quella prudente è in conti di deposito al 50% in valute con leva, e quella invece più aggressiva è proprio quello che è successo. Micidiale, ma quindi la differenza qual è? Che perdi, sì, perdi comunque, però in uno dei due però casi in uno ti dei senti due prudente. Ti senti più, diciamo, al sicuro con te stesso. Però c'è una cosa che mi sconcerta, il fatto appunto che vengano creati addirittura dei siti, sì, che sono credibili. Sì, questo è un altro caso che è accaduto tra le Marche e Milano, perché ha proceduto la magistratura di Milano nei confronti di questi personaggi. Pare che questi qui cosa facessero? Mettevano un sito, diciamo che convincevano gli investitori a sottoscrivere l'investimento, gli facevano aprire un conto online, gli davano una password, un ID, e loro accedevano effettivamente a un conto, solo che al di là del conto non c'era proprio niente e veniva... ah, era Matrix proprio. Era Matrix. Esatto. E i soldi erano già finiti altrove, dal bianconiglio. Però il sito era credibile, questo è la cosa che mi sconcerta. Ah, una cosa molto importante: chiunque voglia fare una truffa finanziaria deve assolutamente dotarsi di un sito internet credibile. E quindi questa è veramente l'ultima frontiera conosciuta al momento, scoperta al momento, del serpente corallo. Più articolato e organizzato e ben disegnato il sito, più il risparmiatore è invogliato a accedervi. E quindi sostanzialmente quello che accade è che uno è convinto di stare guardando sul sito, sul proprio computer, sul proprio telefonino, i suoi risparmi, sta vedendo come stanno andando, se sta perdendo, se sta guadagnando, se va bene il saldo, te lo fanno vedere attivo, poi in realtà il saldo è mamma mia quante perdite. Sì. Come quando Gabelleri ha scritto la luna di carta, gli fanno vedere la luna di carta. Ecco, gli fanno vedere in questo caso la luna invece di digitale, ed è quello che accade, purtroppo è accaduto, perché l'abbiamo testimoniato, vero Stefano, in più di un caso, questo utilizzo fraudolento dell'online, del digitale. Sì, come dicevo una volta, la differenza tra la normalità e la disperazione sta in un click. Esatto, in un click. Infatti abbiamo voluto anche noi sottolineare come Chapter 11, perché certo, i nostri ascoltatori lo sanno, noi oltre che essere tra i giornalisti del Sole 24 Ore, anche potremmo dire nostro malgrado, siamo soprattutto i tre fondatori del gruppo dei Chapter 11, un gruppo, l'unico gruppo europeo che esegue pop tributario economico con venature giuslavoristiche. Che ha questo coraggio almeno, ecco. Esatto, non ce ne sono altri. Noi abbiamo, non so se Marco te lo ricordi, canzone che si intitola A Social Network, però a volte tra di noi la chiamiamo anche Facebook. Sentiamola. Una mia fidanzata di Maiorca, che io credevo aver seminato, per colpa del motore di ricerca mi ha visto e mi ha anche ricattato. Compagno delle elementari, a cui rubavo sempre la focaccia, mi scrive che se non mi metto in pari mi aspetta sotto e mi spacca la faccia. Faccia, e poi mi ha ritrovato il primo amore, quella che mi riempiva di sei corna, adesso che assomiglia ad un trattore mi dice: caro amore mio, ritorna. E allora questo è un assaggio naturalmente di Facebook dal nostro primo e unico CD che si intitola Ma ce l'avete il CD? Ma questa volta, caro Marco, io ti voglio dare uno schiaffo morale. Ah, sì? Sì, sì, ma in senso naturalmente metaforico. Ah, male. No, tengo le mani a posto, però te lo voglio dire. Tu mi porti sempre queste interviste con questo regista, questo docente di finanza oscura, questo pipitone broccoli, insomma, che tutte le puntate me lo vendi come se fosse... Vabbè, è dietro tutte le porcherie, tu c'hai sempre pipitone broccoli. Esatto, è lui comunque. Secondo me, l'architetto. Guarda, vabbè, insomma, il grande regista Pipitone Broccoli. Allora io questa volta invece ti ho portato un webmaster, digital teacher, esperto di corsi di sopravvivenza digitale. Ah, guarda, e l'ho portato qui in studio per proprio farti vedere a che cosa posso arrivare quando ti porto dei personaggi in esclusiva. Signore e signori, è con noi Andrea Carlini. Buongiorno. Buongiorno, ingegnere, professore. Buongiorno. Come devo chiamarla? Il mio nome è Andrea Carlini. Nella mia vita ho affrontato alcune delle sfide più estreme nei luoghi più pericolosi della Terra. Tipo? Ho attraversato l'oceano in solitaria, ho sorvolato i vulcani islandesi in deltaplano e ho montato una cucina IKEA bestemmiando solo una volta. Vabbè, questo è sorprendente, però questo è il mondo fisico. E nel mondo digitale? Sì, io organizzo corsi di sopravvivenza nel mondo digitale. I miei alunni devono superare delle prove difficilissime nel mondo reale. Io li porto nel deserto di Dubai. Dove spariscono i soldi con pipitone broccoli. Esattamente. Peraltro. E questi corsi qua lei li tiene digitalmente, online, immagino. No, i soldi mi arrivano online su un conto di Dubai. Poi io li prendo e li porto fisicamente a Dubai. No, ma io dicevo, i corsi lei li fa online, cioè è un teaching online, un... Adesso io non lo so, io con questo inglese qui faccio sempre confuso. Webinar, fa dei webinar. Eh? Sì, dei tutorial. Ma com'è tutorial, che parlate webinar. Voi altri? Io non vi capisco. Ma noi siamo avanti, scusa. Scusa, professore, mi scusi, l'abbiamo interrotta. Ci sono dei tutorial che io preparo. Ad esempio, io posso spiegarvi in solo 30 minuti come costruire una meridiana usando solamente il sole e Rocco Siffredi. Vabbè, questo, abbiamo qualche sospetto. Cose meno imbarazzanti, anche perché la disponibilità di Siffredi forse non è così immediata. Posso insegnarvi a costruire un mojito usando solamente una banconota da 10 euro e un barman. Beh, questo qui però mi sembra una cosa abbastanza alla portata di tutti. Sembra facile. Perché? È molto difficile. In che senso? Bisogna trovare un barman che lo sa fare. E poi il ghiaccio nel deserto del Dubai. Ah, perché lei già là è rimasto. Dove arrivano i suoi soldi, appunto? Io vivo a Dubai, nel deserto del Senta, Dubai. Senta, le faccio una domanda personale. Ma lei conosce Pipitone Broccoli? Per caso? Eravamo compagni di scuola. Ecco, perché immaginavo che l'abbiamo ci fosse un beccati, qualche legame. L'abbiamo beccati. E allora, vedi che però poi tutte le fonti si tengono. Ma sì, tutto torna, vedi. Senta, io non so che il suo tempo è preziosissimo. Lei intanto vedo che sta consultando anche il suo smartphone. Questo smartphone particolarissimo, ma lì sta trasferendo denaro dei suoi allievi. Anche. Ho un sacco di iscrizioni. Lo immagino, perché guardi, purtroppo il serpente corallo trova sempre nuove prede e immagino che sia così anche per lei. Sì, sono i miei alunni sono interessati a costruire dei rifugi per il proprio denaro. Prego? Dei rifugi per il proprio denaro. E in che cosa? Beh, io ad esempio insegno a costruire un rifugio nel deserto del Dubai usando solamente la sabbia, un bastone e un cerchio disegnato per costruire una banca costruita intorno a voi. Questa cosa qui l'avevo già sentita, questo però precisiamo a scanso di querele che non c'entra col serpente corallo, altrimenti qua ci portano via anche la camicia e esatto. Mi fermo alla camicia per non dire di peggio. Allora, mi scusi professore, io non posso trattenerla, tra l'altro qua mi incombe anche l'interruzione pubblicitaria, non so se nel frattempo lei vuole occuparsi di cose, però le chiedo di restare qua perché torniamo tra pochissimo. Voglio sapere, voglio scoprire tutto di questi corsi, di questi webmaster teaching operating officing, insomma queste cos'è che hai detto che è webinar. Vabbè, webinar. E allora a tra pochissimo di nuovo con il serpente corallo. Il serpente corallo. Ma quanto sei bello serpente corallo, tutto colorato di di giallo, ma quanto sei bello serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Bentornati al Serpente Corallo, abbiamo voluto scherzare un poco, certo, perché qui con noi forse la voce l'avete anche riconosciuta, Andrea Carlini. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. Abbiamo scherzato con Andrea Carlini, con il suo personaggio dell'esploratore, in questo caso esploratore del digitale, ma l'argomento di cui ci stiamo occupando in realtà è serissimo, perché come vi spiegavamo nelle parti precedenti, l'ultima frontiera del serpente corallo, dell'animaletto tanto bello, tanto grazioso, è proprio quella di usare il vostro device, il vostro smartphone, il vostro tablet, insomma il telefonino o il PC che ci avete a casa o che avete in ufficio. Voi siete convinti di vedere i vostri risparmi e invece state vedendo un sito farlocco, i vostri risparmi sono a Dubai, magari appunto con l'esploratore che ci interpretava prima Andrea Carlini. Marco, è così, ho riassunto correttamente? Assolutamente sì, perché il discorso di questa truffa, non è truffa, come la vogliamo chiamare, non si è capito. Insomma, quel che è certo è che i soldi spariscono, vanno altrove e che, come ci spiegava Stefano Elli poco fa, i truffati sono ignari di essere truffati perché vedono sul proprio schermo un dato che non è corretto, non è vero. I soldi invece sono molto meno di quelli che loro credono di avere. Dunque questa è una truffa molto molto insidiosa e molto, diciamo, strisciante, proprio come un serpente corallo. E allora abbiamo invitato qui per parlare non solo Andrea Carlini che è attore, comico, insegnante anche di teatro a Genova e anche a Milano, mi pare, giusto Andrea? Sì, io in realtà i corsi li tengo a Genova, ma l'Accademia del Comico è anche a Milano, quindi... L'abbiamo invitato perché vogliamo capire anche lui se è angosciato quando... Adesso sarai molto angosciato quando guardi il tuo device, il tuo smartphone. Io tanto sono un utilizzatore di smartphone compulsivo, quindi devo stare molto attento. Banca online, anche investimenti, attenzione, ecco. Più che altro YouPorn, si può dire. Vabbè, insomma, su questo glissiamo. Lì io non saprei bene dirti se è una cosa vera o una cosa finta, un po' come la Matrix, ma io ho portato anche, invece, per avere anche un barlume di serietà, non volermene Andrea, un avvocato, Marisa Marraffino. Buongiorno Marisa. Buongiorno a voi. Perché Marisa Marraffino? Perché Marisa è una degli avvocati che per primi in Italia, si può dire, si è occupata di reati, truffe, malversazioni, porcherie varie via social network, via devices appunto. E effettivamente si rischia parecchio, non solo con i soldi, ma anche proprio nel frequentare, mi pare di capire, i social network con leggerezza, giusto? Giusto, c'è da dire che negli ultimi anni le truffe sono diventate molto più raffinate, soprattutto le truffe a mezzo internet. Sui social network ovviamente ci sono molte sostituzioni di persona che hanno preso delle forme sempre diverse, quindi dal cliccare su siti, finti banner pubblicitari, giochi che in realtà non sono giochi, si viene reindirizzato automaticamente verso siti che possono essere truffaldini e quindi possono nascondere reati anche seri per i quali poi è difficile arrivare a ottenere giustizia, perché ci sono dei limiti di cooperazione internazionale per cui spesso le vittime non riescono nemmeno a identificare l'autore di questi reati, proprio perché ci sono una serie di sostituzioni di persone a catena e arrivare poi a un processo non sempre è così semplice. I modi attraverso i quali si arriva a truffare su internet sono i più disparati. Adesso si gioca molto sul meccanismo della fiducia, per cui più il sito è affidabile, paradossalmente, più potrebbe nascondere un'insidia, e questo sta diventando il vero problema. Tra l'altro avvocato Marraffino, io so che lei si è occupata all'inizio, proprio quando ha cominciato a occuparsi di reati su Facebook, anche di sostituzioni di persone famose, quindi volevo dire ad Andrea, attenzione, perché tu sei un personaggio pubblico, hai una pagina Facebook, immagino. Ho una pagina Facebook. C'è Andrea Carlini, se ci volete mettere mi piace. Ci possiamo fidare? Ti possiamo dare del denaro anche, magari meglio di no? Non lo quello so. Meglio di no. Sono genovese, quindi sono uno che il denaro ci sta attento, non lo butterei via il vostro denaro, però non datemelo perché non si sa mai. Anche su Facebook, ecco, ma devi sapere che Marisa Marraffino si è occupata anche di, appunto, di sostituzione di pagine fake. Si dice così, Marco? Fake. Si dice fake. Fake. Di pagine fake di personaggi famosi, giusto? Giusto, giusto. È sempre più ricorrente il fatto che si creino delle pagine di personaggi pubblici proprio per creare una parvenza di affidabilità, e si può arrivare addirittura, non dico estorcere del denaro, ma insomma attraverso il meccanismo della fiducia, quindi like a una persona che si crede di conoscere, poi si può arrivare piano piano a far compiere alla vittima anche atti che in condizioni normali non avrebbe mai fatto. Diciamo che questi reati, in genere, in termini tecnici, si dice che sono reati con la cooperazione artificiosa della vittima. È un termine che mi piace molto, perché nelle truffe a mezzo internet si vede molto bene questo meccanismo, cioè la vittima arriva a un certo punto a collaborare con l'autore di questi reati, fidandosi molto più dell'autore dei reati, forse che alla fine della giustizia, no? Perché dà una quantità di soldi enorme a queste persone, proprio perché si fida molto più di loro che poi del perseguimento effettivo di questi reati. È un caso da risparmiatore maleducato, Marco. Assolutamente sì, mi verrebbe anche da citare la sindrome di Stoccolma, perché a quel punto il truffato, la vittima, si sente talmente legato al suo truffatore che non sa come recidere questo cordone ombelicale. Esatto, guarda, ti faccio un esempio. Molte truffe che sono circolate negli anni venivano veicolate da siti in cui l'autore indicava anche la partita IVA, un indirizzo fisico di residenza. Il consiglio che diamo noi è sempre quello di verificare la sede legale, se c'è un numero di telefono fisso, ma questo può non bastare. Pensate che c'è stato un periodo in cui c'erano anche le truffe agli avvocati, venivano vendute delle toghe agli avvocati, quindi a persone che sono qualificate. Cioè delle toghe, fidano, nel senso delle toghe, di... Ma delle quelle toghe. Che si indossano oppure dei certificati? No, no, no. proprio quelle che si indossano proprio perché il meccanismo di fiducia, quindi si arriva a far credere alla vittima che può fidarsi dell'autore di questo reato e sono diventati molto più bravi. Cioè scordiamoci il vecchio phishing della mail che quello arriva con per... le sgrammaticature dentro. Esatto, scordiamocelo perché quello ormai siamo tutti più avvezzi e molto più bravi nell'individuarlo. Le truffe informatiche sono ben altro. Va bene, allora io volevo fermarmi un momento. Abbiamo qualche consiglio da dare, avvocato Marafino, ai nostri ascoltatori? Perché il phishing, mi hanno detto, si è evoluto tantissimo. Sì. Allora... non è più, non aspettatevi più quelle cose, sono una donna bravo che vi arrivano. Quello che io ricevo, cioè non so, non è vero. Perché io ne ho ricevute tante che dicevano... Andrea, io temo di no, scusami. Sei ragazzo carino, diventa amico, non è vero. Io temo proprio di no, però guarda, se vuoi poi ti facciamo parlare in separata sede con l'avvocato Marrafino. Sono molto triste di questa cosa, va bene. Sì, no, non sono delle ammiratrici innamorate di te, no. Di solito no, magari può accadere. So Marco che è più esperto, che è social media editor. Esatto, guarda, se ne incontrano di tanti tipi. Le sgrammaticature sono sempre minori. Quello che mi verrebbe da dire è che i serpenti corallo sono sempre più attrezzati, sono sempre più bravi, no? E corrono più veloci di quanto noi possiamo correre a migliorare la nostra capacità di frenare le loro insidie. Diciamo che fortunatamente sono diventate più brave anche le vittime. Io alcuni consigli mi sentirei di dare è quello di verificare sempre, soprattutto quando appunto si fanno atti di disposizione economica, quindi transazioni, verificare il protocollo di sicurezza. Quindi il sito deve sempre avere il protocollo certificato HTTPS, perché in caso contrario addirittura le banche potrebbero non risarcire. Quindi attenzione, perché si è evoluto anche questo, quindi si richiede una preparazione più elevata anche da parte delle vittime e poi fare qualche piccola verifica rapida, che è quella di vedere ad esempio dove ha sede il server del sito che si sta consultando, vedere su internet anche dei gruppi di autoaiuto, quindi cominciare a vedere anche le cosiddette referenze, no? di un sito al quale si vuole acquistare, certo. E poi vedere a chi è intestato il dominio. Ci sono molti database online gratuiti che consentono di vedere chi ha registrato quel dominio. Sono delle piccole accortezze, però a volte possono salvare da una frode informatica. Specialmente quando uno ci mette dei denari. Allora, noi tra pochissimo dobbiamo dare le informazioni sul traffico, ma prima di tutto io volevo salutare e ringraziare Andrea Carlini, attore e insegnante anche di teatro. Grazie Andrea, grazie. Grazie a voi dell'invito, come sempre. Di aver giocato, tra l'altro tu sei un ascoltatore di Radio 24 abituale, giusto? Io sono, sì, proprio un ascoltatore compulsivo, dal mattino fino a... poi sono sempre in macchina, quindi proprio facilità ad ascoltare Radio 24. Ah, va bene, l'abbonamento ai 10 caffè te l'ho lasciato giù al bar per farti dire questa cosa, quindi grazie. Trovi, poi puoi riscuotere con allora comodo. Allora vado a prendere il caffè. Stefano, invece abbiamo un minuto e siccome dobbiamo lanciare le informazioni sulla viabilità, io so che tu hai questo luogo dello spirito che è la Brebemi, la Brescia-Bergamo-Milano, questa autostrada che ti ispira sempre. È bellissima, io quando vado sulla Brebemi sto bene. Allora, vuoi dirci qualcosa in 30 secondi sulla Brebemi di particolarmente ispirato? No, leggo un'agenzia. Sì. C'è stato un altro tamponamento sulla Brebemi. Ah sì? 18 metri di coda, ma è in via di risoluzione. Ah, va bene. Beh, quindi m'ero preoccupato. Le attese sono stimate nell'ordine dei 25 secondi? Forse meno. Vediamo se lo dicono alle informazioni sulla viabilità. A tra poco. Traffico! Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Il serpente corallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Bentornati al Serpente Corallo, bentornati. Oggi stiamo parlando di truffe con i device, truffe con internet, truffe con Facebook. Truffe col bot, insomma. Truffe col bit, più che col bot. Allora, truffe col bit, perché le truffe sono sempre più digitali. Ci sta accompagnando e guidando in questo percorso l'avvocato Marisa Marrafino. Mi diceva prima, mentre ascoltavamo le informazioni sul traffico, ci può essere qualche accortezza sicurezza ulteriore da mettere in atto. Ad esempio, osservare le modalità richieste per il pagamento è una di queste. Sì, quello può essere un buon indizio per cercare di evitare qualche truffa. Diffidare sempre dai siti che propongono soltanto un modo di pagamento, quindi il bonifico, che può appunto consentire di stornare soldi in realtà su altri conti correnti. Ma è sempre preferibile che la modalità di pagamento, che le modalità siano diverse. Per esempio, PayPal è un ottimo modo per garantirsi in qualche modo, perché spesso consente anche, in caso di truffe, di rimborsare l'utente. Quindi, nel caso in cui siamo vittime anche di frodi informatiche di poco rilievo, si può, quindi di un esborso economico non eccessivo, si può riuscire, insomma, a riavere i nostri soldi indietro, e quindi evitando anche di, ecco, di ricorrere la giustizia, aspettare tempi eventuali. È più facile, eventuali. Piuttosto che la causa civile, che ovviamente non è mai celerrima, per così dire, cioè non è mai velocissima come tempi. Ecco, una cosa che ci piace approfondire è sempre in questa trasmissione, è il fatto appunto dei comportamenti del risparmiatore maleducato. A questo proposito, noi abbiamo addirittura una rubrica, giusto? Certo, certo. E allora, in questa ultima parte del programma, vi proponiamo da un'idea di Marco Lo Conte, la nostra rubrica Il risparmiatore maleducato. La sigla. Il risparmiatore maleducato. Allora, benvenuti alla nostra rubrica, benvenuto a Marco Lo Conte. Grazie, ma ero già qui. Sì, eri già qui, però... Però non come, autore del risparmiatore. No, ti presento come interprete, autore, ideatore del risparmiatore maleducato. Metto il cappello. Metto il cappello, sì, perché tutte le volte mi devo spogliare e rivestire, tutto in un attimo ci metto... Va bene, ok, sono pronto. Allora, l'idea è, ma com'è che uno si fa turlupinare così facilmente? Specialmente con l'internet, con internet, insomma. Sai che Patricia Wallace, Patricia Wallace, sì? Tanti anni fa ha scritto un libro, La psicologia di internet, che dice molte cose, però parlando di denaro, poi ci torniamo perché questi sono temi che ricorrono, parlando di denaro, gli italiani, ma tutti, ma insomma, gli italiani in particolare hanno una abilità a fare pasticci. Questa ormai è abbastanza. Siamo più predisposti. Ma forse sì, ma insomma, c'è una percezione irrazionale. Il denaro non si riesce mai a considerarlo in maniera razionale. Ma sai perché? Perché scattano dei meccanismi psicologici. Insomma, di denaro in genere non si parla, c'è un po' di pudore a dire quanto uno ha sul conto corrente, quanto guadagna. Chi è che ti viene a dire quanto sì, è considerato sgarbato. È una cosa che bisogna tenersi per sé, no? Un po' come il voto. È un po' come, secondo me, ancora più del voto, perché uno fa mostra, no? Ha un'appartenenza politica, ma quanti soldi c'ha sul conto corrente? Morire se te lo dicono. Spesso neanche magari al consorte, Ma questo c'è un motivo molto specifico. Più di un motivo, di solito due vanno insieme. Vabbè. Perché potrebbe annidarsi il serpente corallo. Ma allora va bene, non abbiamo tanta voglia di parlare di denaro, non ci piace parlare di denaro, e però questo poi ci espone, vero? Eh sì, a molti rischi. Poi quando si fanno dei pasticci non lo dice a nessuno, per cui peggio, no? Perché rimandi anche la cura al pasticcio che hai combinato. Ma sai chi è che aveva l'antidoto a questi? L'aveva il signor Luca Pacioli. Chi è? Luca Pacioli. Luca Pacioli è precisamente? Nel 1494. Ah, caspita, ieri proprio. Sì, Luca Pacioli è considerato, nel pieno del Rinascimento italiano, il fondatore della contabilità. Ah, ecco, stavamo parlando di internet, Marco, sì. Però se adesso da Pacioli arriviamo alla contabilità, già arriviamo a internet, ci va un paio d'ore. No, guarda, no, ma sai che cos'è? È che parlando di pensioni, abituato a scrivere di pensioni, uno elabora poi uno storytelling un po' elaborato, un po' particolare, insomma la prende un po' alla lontana. Un attimo, però guarda, arrivo al punto. Vabbè, cosa c'entra Luca Pacioli con il denaro? Arrivo. Il punto è che noi non sappiamo cosa fare del nostro denaro quando non ce l'abbiamo in tasca. No? Cosa dovremmo fare del nostro denaro? Quando non ce l'abbiamo, quando lo mettiamo, diciamo, sul conto corrente, cosa dobbiamo farne? Cosa ne facciamo? Lo lasciamo lì, riposa, sta lì, è sbagliato farlo riposare. Il denaro non deve riposare, dormire. Questo è un rischio, perché noi dovremmo farlo crescere, magari poco, ma farlo crescere. Questo è la base. Però noi diciamo sempre che bisogna essere prudenti, quindi rischio poi vuol dire che magari lo perdo, e qui siamo proprio a dire ogni settimana. Attenzione, perché ci può essere il serpente corallo che ghermisce il vostro risparmio. E infatti i rischi si presentano in forme che nemmeno ti aspetti. Consolidato che i rischi e i serpenti corallo com'è che vengono fuori? Vengono fuori quando tu abbassi la guardia, quando ti inizi a fidare. Rimaniamo coi piedi per terra, facciamo un caso classico, sappiamo tutti classico. Che cos'è l'inflazione, non no? del 500 no, però, non l'inflazione, del l'inflazione sì. Tutti sanno che cos'è, no? L'aumento dei prezzi e quindi quella cosa che in realtà fa la differenza tra il valore reale di una cosa il valore nominale, cioè quello che c'è scritto sopra, il numero, il nome, no? La differenza è l'inflazione, esatto. In altre parole, il punto è che col passare del tempo l'inflazione incide sul valore nominale e abbassa il valore reale della delle cose. Certo, quindi l'anno dopo per comprare quella stessa cosa ti serve più denaro. Esatto, se tu un anno fa compravi una cosa a 100, con un'inflazione del 2% anno... L'anno dopo, 102. A me viene in mente un numero. Certo, qual è? 1936,27. Ah, quello lì è il famoso rapporto di conversione lira-euro, naturalmente. Il detonatore di tante storie. In una notte mi ha aumentato il biglietto del tram del 100%. Quelli sono stati pasticci combinati. Quella è stata un'inflazione un po' particolare. Magari ne parliamo una volta al serpente corallo. Sì. Ma restiamo sul punto, Marco, scusa. Allora, l'inflazione cosa c'entra con questo atteggiamento sballato che possiamo avere con il denaro? Se tu sai che hai un'inflazione dell'X%, adesso è un po' meno del 2%, ma anche fosse dell'1%, tu devi sapere che devi lottare contro l'inflazione. Cioè i tuoi soldi devono crescere almeno... pari al tasso dell'inflazione, così tu preservi il valore reale del tuo reddito, se no ci perdi, anche se tieni lì i soldi, che poi quando parliamo di un anno è facile, no? Un anno con l'altro 100 diventa 99, diventa 101, parliamo di cose, ma se guardiamo anni più lunghi, periodo un po' più lungo, 10 anni, 20 anni, tu secondo te del denaro, quanto ci mette del denaro a raddoppiare il proprio valore se ha un tasso, che so, del 4%? Non è 10.000 euro investiti al 4% diventano 20.000 euro in 18 anni. Oh, caspita, però. Questi sono numeri. Diventano maggiorenni. Diventano maggiorenni, infatti, la cosa migliore quando nasce un bambino, no? Tu gli regali due soldini, quei due soldini diventano 4 quando diventerà maggiorenne se li investi nella maniera più opportuna. Cioè devi capire che un tasso di interesse, come per esempio quello rappresentato all'inflazione, incide anno per anno e in tanti anni può raddoppiare o dimezzare il valore reale del denaro. Sempre stando attenti a non affidare i soldi a Pipitone Broccoli. Sempre stando attenti, per questo non lo intervistiamo. Tuo amico Pipitone Broccoli, peraltro. Amico la parola grossa, diciamo che ha un profilo che mi è particolarmente familiare, ma questo è un altro discorso. Il punto è che i tassi funzionano al rialzo, cioè aumentano il nostro denaro, o al ribasso e quindi lo diminuiscono. E anche, per esempio, un'inflazione può dimezzare il nostro... Noi crediamo che non fare nulla vuol dire essere prudenti. Uno non rischia, non fa niente, invece... Chi non fa, non falla. Chi non fa, non falla. Invece questo è l'errore. È lì che si annida il serpente corallo, perché l'inflazione erode il valore del tuo denaro e te lo dimezza nel corso del tempo. Erode, dicevi Stefano? No, erode. Erode. Luca erode. Paccioli, mentre erano tutti lì a festeggiare Cristoforo Colombo, erano tutti lì nel 1494, con i pappagallini di Cristoforo Colombo, lui zitto zitto ha scritto queste regole e noi ancora adesso le dobbiamo rispettare, per quanto adattate alla nostra, ai nostri, per esempio, devices, per esempio... I nostri devices, dove utilizziamo per esempio un bel foglio Excel che ci semplifica la vita. Allora, il senso è che non bisogna avere troppa remora anche a consigliarsi con qualcuno, a parlare apertamente. Assolutamente. Con una persona competente, professionale, certo. Del proprio denaro. Uh-huh. Credo, cerco anche l'approvazione dell'avvocato Marraffino che annuisce, quindi mi sembra che sia d'accordo anche su questo aspetto. Giusto. Ecco, e però neanche lasciare lì il denaro, come dire... A dormire, a sonnecchiare, ad andare in coma, no. Dimenticarselo del tutto, perché anche quello è un comportamento poi che uno non se ne accorge, ma gli arriva il serpente corallo. Comportamento maleducato. È un comportamento da risparmiatore maleducato. Non so se abbiamo tempo di questa mia rubrichina a cui sono molto affezionato, secondo voi? Ma se breve sì. E allora proviamo a mettere la sigla, vediamo, perché è una rubrichina che mi piace molto. Andiamo con il comma profondo. comma profondo. Io vi voglio lasciare oggi con questo interrogativo. Secondo voi, se un potatore va a potare le viti con la forbicina e la scala, quant'è l'IVA? E se un potatore invece ci va con un cestello meccanizzato, quant'è l'IVA? Fa lo stesso lavoro. Ma se ci va col cestello meccanizzato, l'IVA è 10%. Aliquota ridotta. Se va su sulla scala e clic clic con la forbicina, si stanca di più e l'IVA sta al 22%. Cioè, quindi incassa di meno. C'è un motivo, perché c'è sempre un motivo nell'IVA. Il motivo è che passa da una prestazione agevolata in agricoltura, quella meccanizzata, a una prestazione di servizi tout court. E così l'IVA, misteriosamente, lievita, perché l'IVA, prendendo a prestito le parole del poeta, è mistero senza fine bello. E allora questo era il comma profondo. Siamo arrivati in conclusione di questa nostra puntata del Serpente Corallo sull'IVA, e avrei tante cose da chiedervi e anche da chiedere, soprattutto qualcuna ogni tanto la capisco e allora la spiego. Grazie di essere stati con noi, mi raccomando scriveteci serpentecorallo@radio24.it. Ringraziamo i nostri ospiti, Andrea Carlini che ci è venuto a trovare nella seconda e terza parte di questo programma, l'avvocato Marisa Marraffino, e da Mauro Meazza, Marco Loconte, Stefano Elli, un grazie ancora del vostro ascolto e un a risentirci settimana prossima. Ciao! Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto corallo.